Fermati, o sole. Ho letto un interessante libro dove l'autore dava una spiegazione all'episodio in cui Giosuè ordina al sole di fermarsi nel luogo dove si trovava. Se la spiegazione fosse stata una delle tante che si sentono, non mi sarei curato di tenerla in considerazione, ma la reputa degna di essere presa in esame. Perché è davvero originale. L'autore sostiene che la Terra subì una forte inclinazione dell'asse terrestre. Ecco cosa dice l'autore. Ormai è di dominio pubblico che una volta il deserto del Sahara era un mare e che il polo sud era sgombro dai ghiacci. Resti di fossili di palme in Canada, alberi con frutti tuttora intatti e intere. Foreste congelate sotto la spessa coltre del ghiaccio del polo sud sono alcuni esempi delle pesanti trasformazioni che hanno inciso sulla storia evolutiva della Terra, fin dall'inizio del Cinquecento. Esistono molte carte sulle quali l'Antartide compare libera dai ghiacci. E dire che il Polo Sud fu scoperto ufficialmente soltanto nel 1818. Come si spiega che 300 anni prima l'Antartide comparisse su carte di quell'epoca? Sulle mappe in uso prima della scoperta ufficiale l'Antartide figurava come una distesa d'acqua, quindi senza ghiacci, e pertanto non compariva alcunché che indicasse una terraferma. Soltanto a partire dal 1957 conosciamo la topografia di questo continente, che possiede montagne, fiumi e linee costiere nascoste sotto il ghiaccio. Come si spiega, allora, il fatto che il Polo Sud è raffigurato in maniera qualitativamente esatta su carte antiche e per di più ancora senza ghiacci? L'inversione dei punti cardinali. Lo scrittore latino Gaio Giulio Solino, III-VI secolo d.C., riferisce i miti delle popolazioni confinanti con l'Alto Egitto. Quelle antiche tradizioni parlano di un corso del sole diverso da quello attuale. Dicono che al tempo dei loro antenati il sole sorgeva dove adesso tramonta. I cinesi parlano di un nuovo ordine a partire dal quale le stelle cominciarono a muoversi da oriente a occidente. Velikovsky scrive che i segni zodiacali cinesi si susseguono alla rovescia, dunque in senso contrario al corso attuale del sole. Erde I.M. Aufur, 1994. Anche i greci narrano di orbite delle stelle e del nostro sole che vanno al contrario. Nell'Elettra, l'autore tragico greco Euripide, Cari, 485-406, parla delle stelle che sono state costrette a muoversi all'indietro e degli analoghi cambiamenti del movimento del sole. Nell'Oreste fa dire questa l'origine della contesa che fece mutare il corso al carro alato del sole, volgendo verso l'aurora, il celeste sentiero che lo conduce alla sera. Al corso della settemplice Pleiade Zeus segnò allora altra via. Un altro greco, Platone, 429-347, nel dialogo Il Politico, parla dell'inversione del sorgere e del tramontare del sole e degli altri corpi celesti. Lo stesso universo si sarebbe messo a ruotare in direzione contraria. Ci si ricordi che dalla Terra non ci si accorge della rotazione del nostro pianeta. Si crede invece che si muovano le stelle e quindi l'universo. Secondo le popolazioni dell'America centrale, prima che nascesse il mondo esistevano quattro soli ai quali davano quattro nomi distinti, secondo i periodi celesti. Anche il Corano parla di due orienti e occidenti. Il Talmud e altre fonti antiche dicono che quando gli ebrei uscirono dall'Egitto il movimento del sole subì dei cambiamenti. Nel secondo libro delle storie lo storico greco Erodono 484-420 scrive che quando visitò l'Egitto ebbe colloqui con i sacerdoti egiziani, dai quali apprese che c'erano state 341 stirpi di re, e che durante quel tempo il sole era spuntato quattro volte dalla parte opposta a quella consueta. Il sole percorse due volte il suo tragitto celeste che noi conosciamo, e due volte tramontò dove adesso sorge. Nei secoli passati queste informazioni sono state oggetto di controversia. In verità, se partiamo dal presupposto che per tutta la sua storia la Terra abbia mantenuto una rotazione e un'orbita costanti, ci priviamo della possibilità di capire le suddette tradizioni. I testi egizi riportano ripetutamente e chiaramente che il sud diventa nord e la terra si inclina in avanti, oppure che le stelle smisero di vivere nell'occidente e apparvero rinnovate nell'oriente. Gli egizi attribuivano anche nomi diversi al sole occidentale e a quello orientale. Dobbiamo considerare queste testimonianze come semplici indizi di una rotazione molto irregolare? Oppure dobbiamo scorgervi la descrizione delle ripetute capriole del globo terrestre? Sul soffitto della tomba di Senmut, l'architetto della regina Hatshepsut, fu rinvenuta un'antica mappa celeste, sulla quale sono raffigurati i segni zodiacali e altre costellazioni. In essa l'orizzonte meridionale rappresentato rovesciato, e la costellazione di Orione sembra muoversi in direzione sbagliata, ossia verso Oriente. Nell'insieme si ha un'inversione di Oriente e Occidente e di Nord e Sud. È evidente che la figura riproduce la vista del cielo prima dell'inversione dei poli. Nella stessa tomba C è un'altra raffigurazione dove la disposizione dei corpi celesti corrisponde alla nostra immagine consueta, anche se tutte le costellazioni appaiono spostate. Questo spostamento non si può spiegare con la misura delle processioni che noi conosciamo. La nostra scienza accademica non è in grado assolutamente di spiegare la prima immagine. Riguardo alla seconda rappresentazione del cielo, essa non prende in considerazione lo spostamento della posizione delle stelle? Oppure considera quella raffigurazione ispirata da tempi antichi, allorché a un certo punto degli ultimi 26.000 anni un intero ciclo di processione riproduceva l'assetto visibile del cielo? È anche possibile interpretare le due immagini come istantanee del cielo prima e dopo una catastrofe che comportò l'inversione dei poli. In tal caso esse fornirebbero il quadro esatto di un dato tempo del nostro passato risalente solo ad alcuni millenni. Lo spostamento delle costellazioni significa che l'asse terrestre subì una variazione dell'inclinazione, ponendosi in una posizione differente da quella che oggi noi siamo in grado di osservare. Le inversioni dei punti cardinali, delle quali ho appena parlato basandomi sulle tradizioni e sulle testimonianze antiche, vogliono essere semplici esempi il cui elenco può essere allungato a volontà. Le antiche tavole astronomiche indiane, sumere o babilonesi, presentano spesse differenze inspiegabili, come se fossero state rilevate da un punto di osservazione distante parecchie migliaia di chilometri. I calcoli per queste tavole sono la prova che in un passato non troppo remoto era avvenuta una catastrofe globale e che di conseguenza la situazione geografica rispetto al firmamento doveva essere mutata. A meno che la scienza abbia ragione ad affermare che i nostri antenati erano troppi ignoranti per essere in grado di eseguire calcoli. Nel libro biblico di Giosuè sono descritti fenomeni cosmici che hanno dato il via alle interpretazioni più svariate. Il giorno che l'Eterno diede gli Amorei nelle mani dei figli di Israele, Giosuè parlò ol Eterno e disse in presenza d'Israele, Sole, fermati su Gabaon, e tu, Luna, sulla valle di Ajalon. Così il Sole si fermò e la Luna si arrestò, finché il popolo si fu vendicato dei suoi nemici. Questo non sta forse scritto nel Libro del Giusto? Così il Sole si fermò in mezzo al cielo e non si affrettò a tramontare per quasi un giorno intero. E non ci fu mai, né prima né dopo, un giorno come quello, in cui l'Eterno abbia esaudito la voce di un uomo, perché l'Eterno combatté per Israele, Giosuè 10:12-13. Le interpretazioni di questo passo biblico non si contano e non vale neppure la pena discuterle, visto che secondo la nostra scienza nessuna di esse possiede un grado magari anche ridotto di credibilità. Se la Bibbia presenta le cose nella loro realtà effettiva, ne consegue che la Terra dovette smettere di ruotare su se stessa per quasi un giorno. Infatti, non sembra che il Sole abbia compiuto qualche movimento straordinario autonomo. Le affermazioni bibliche sono assolutamente inconciliabili con un decorso uniforme delle vicende della nostra Terra. Si danno dunque due sole possibilità, o al limite tre. Se interpretiamo il racconto dell'arrestarsi del sole nel suo corso, nel senso che in effetti esso stette fermo in cielo per quasi un giorno, ma che ciò nonostante qualcosa, nel frattempo continuò a muoversi, possiamo ravvisare una coincidenza con lo scenario del diluvio che ho tracciato fin qui. Se per qualche motivo l'asse terrestre si inclinò notevolmente in direzione del tragitto solare, tanto che il sole non scomparve all'orizzonte, allora il giorno durò realmente più di 24 ore. In tal caso, per chi osserva dalla Terra, il sole piegò realmente verso un'altra direzione, per poi riprendere il solito corso in cielo. Noi sappiamo bene che al punto di ritorno l'occhio ha l'illusione che il movimento del pendolo si arresti. Se invece interpretiamo la Bibbia alla lettera e ammettiamo che il sole non abbia fatto assolutamente nessun movimento, meno ossia che si sia arrestato completamente, meno il quadro cambia del tutto. In questo caso è stata la rotazione terrestre ad arrestarci per quasi un giorno. Se poi la Terra prese a muoversi in senso contrario, allora si spiegherebbero facilmente le antiche tradizioni che parlano dei movimenti a rovescio del Sole. Le conseguenze dell'arresto della rotazione terrestre sarebbero verosimilmente devastanti. Pertanto la prima interpretazione è forse la più credibile, e in particolare ne risulterebbero spiegati tutti gli altri fenomeni. Ciò non escluderebbe un cambiamento di velocità della rotazione della Terra. Però anche la seconda interpretazione potrebbe essere esatta. La Terra gira come una trottola. In teoria, l'asse terrestre può inclinarsi fino al livello del piano orbitale. In effetti è ciò che oggi avviene al pianeta Urano. In questo caso l'impressione ottica che il Sole si arresti o addirittura si muova al contrario si concilia perfettamente con il passo biblico in questione. Su una faccia del globo terrestre si sarebbe verificato un prolungamento dell'oscurità, mentre sull'altra il giorno si sarebbe prolungato in proporzione. A partire da un certo punto dell'inclinazione, oltre i 90 gradi dell'asse terrestre, il sole scompare all'orizzonte per sorgere sulla faccia opposta del globo, con grande stupore della gente del posto. In tal caso il sole appare muoversi il contrario. Oriente e occidente si invertono. Per uno che osservasse da Venere, il sole sorge tuttora a occidente, per il fatto che Venere si muove con moto invertito, ossia al contrario del senso di rotazione dei pianeti del nostro sistema solare e quindi della nostra Terra. Se vogliamo prestar fede a molte antichissime tradizioni, il fenomeno dell'inversione apparente del moto solare si è verificato non meno di due volte. Perché la Terra non avrebbe potuto sperimentare più volte un'inclinazione pronunciata del suo asse? In effetti dovrebbe essere stato addirittura inevitabile, per la ragione che una forte oscillazione dell'asse sul piano dell'eclittica avviene con movimento pendolare. Visto di lato, quindi da una prospettiva bidimensionale, l'asse terrestre oscillò sul piano dell'eclittica da una parte all'altra con andamento pendolare, oscillazione che coinvolse naturalmente l'intero globo terrestre. Quindi, anche se il secondo movimento pendolare fu meno pronunciato del primo, fu tuttavia sufficiente a far apparire che il Sole si muovesse in senso contrario. Il Sole continuò a sorgere da occidente. In seguito alla terza oscillazione, forse il Sole non scomparve più dall'orizzonte, ma prese a vagare sopra il firmamento lungo traiettorie prima sconosciute. Però riprese a sorgere come prima a oriente e a tramontare a occidente. Il movimento di rotazione della Terra non subì anomalie importanti. Probabilmente tuttavia l'orbita della Terra intorno al Sole si spostò verso l'esterno, ossia si dilatò, per cui il periodo di rivoluzione si allungò da 360 a 365 giorni, e quanto è attestano i calendari più antichi. Anche la velocità della Terra rallentò, con la conseguenza che, nonostante la trasformazione delle condizioni fisiche, essa sopravvisse alla catastrofe. Se la Bibbia ha ragione, ed è esatto quando ho detto fin qui, la faccia opposta della Terra dovette trovarsi al buio per quasi un giorno. Zecharia Sitchin ha scoperto che il racconto di un fenomeno del genere è tramandato presso le popolazioni andine. Si narra che il sole scomparve per 20 ore, dunque per quasi un giorno intero. Il fenomeno si sarebbe verificato durante il regno di Titu Yupanqui Pachacuti II, quindicesimo sovrano dell'epoca antica, ossia intorno al 1400 a.C. Due racconti apparentemente incredibili e indipendenti di un fenomeno a due facce si dimostrerebbero esatti.